Buonasera a tutte e a tutti, questa è la terza puntata di Sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione di Facciamo Breccia e ai microfoni di Radio Onda Rossa Elena e Monica. Per Facciamo Breccia stasera, per scoprire cos'è, perché ancora non la conoscesse, vi rimandiamo al sito www.facciamobreccia.org, su cui potete trovare iniziative, idee, contenuti, tutto quello che riguarda Facciamo Breccia. La trasmissione di stasera sarà una trasmissione quasi monografica che tratterà della beatificazione di 498 franchisti che il Vaticano si appresta a effettuare domenica prossima, il 28 ottobre. Ma intanto cominciamo da un altro evento che io definirei sconcertante. È una notizia di ieri, la Regione Toscana ha elaborato una campagna di comunicazione contro l'omofobia e ha scelto per questa campagna uno slogan che è "L'orientamento sessuale non è una scelta", corredato dall'immagine di un neonato che porta un braccialetto con scritto homosexual. La Regione Toscana, quindi, in maniera a nostro avviso assolutamente sconcertante, ha deciso di rendere pubblica una campagna di comunicazione che riporta il dibattito sull'omosessualità in una concezione totalmente biologista, genetista dell'omosessualità stessa, cancellando in questo modo 35 anni di lotta per l'autodeterminazione dei movimenti di gay, lesbiche e trans dal 69 a oggi. Una parte del movimento, Arcigay in particolare, è entusiasta di questa campagna. Noi siamo invece qui a denunciarne la gravità e invitiamo tutte e tutti a farsi carico della protesta, della denuncia di quanto sta accadendo, e per questo vi invitiamo a visitare il sito www.azionegaylesbica.it, sul quale potete trovare un appello perché la Regione Toscana ritiri immediatamente questa campagna che, ripeto, riporta indietro il dibattito a quando gay e lesbiche non avevano ancora preso la parola in prima persona. Ma invece la trasmissione di stasera appunto sarà quasi totalmente dedicata a questo fatto che domenica prossima il Vaticano, qui a Roma, a San Pietro, beatificherà 498 franchisti, 498 tra religiosi e laici che nella guerra di Spagna erano, diciamo, dalla parte del Movimento Nacional, dalla parte di Franco. Per entrare in questo tema, partiamo da un excursus storico che vuole essere semplicemente appunto un excursus in particolare dedicato a qual è stata la posizione, il posizionamento politico della Chiesa in questa vicenda di Spagna. Per un approfondimento più ampio, anche dal punto di vista storico e storiografico, vi rimandiamo a Radio Euskadi, la trasmissione che Radio Onda Rossa di Radio Onda Rossa che si terrà venerdì alle 18, sempre su queste frequenze. Ma appunto cominciamo a analizzare, anche se in maniera veloce, insomma, qual è stata la posizione della Chiesa, scusate, in Spagna negli anni 30. La Seconda Repubblica Spagnola, appunto, sì, come sappiamo, si è affermata nel 1931 dopo il crollo del regime di Primo de Rivera, formato dalla triade di fatto monarchia, chiesa, dittatura, che aveva fatto della Spagna negli anni 20 la patria di un'egemonia culturale cattolica dai forti toni integralisti. Del resto è sempre stata particolare la posizione della Chiesa spagnola, mantenuta costantemente temporale, e quindi sempre identificata con il potere e con l'oppressione, sempre legata agli interessi dei proprietari terrieri e degli stati più e degli sta e degli delle parti più ferocemente reazionarie della società. Appena fu ratificata la vittoria repubblicana in Spagna, il primate di Spagna, il cardinal Segura, invitò i cattolici a mobilitarsi contro lo Stato liberale che si stava costituendo, che a suo avviso avrebbe distrutto la religione e la Chiesa. D'altro canto, il governo di Azaña ebbe un'impronta di laicizzazione. La Costituzione che fu scritta in quel periodo in parte vanificò l'enorme potere della Chiesa. Nel 1933 il Vaticano dichiarò guerra esplicitamente alla Repubblica Spagnola, che aveva nel frattempo varato una legge contro gli ordini religiosi che facevano obbedienza di voto a un'autorità diversa dallo Stato, in un'enciclica, la Dilettissima Nobis. In questa enciclica il Vaticano definì la Repubblica Spagnola funesta conseguenza del laicismo. In questo periodo la politica estera del Vaticano era gestita dal segretario di Stato Pacelli, il futuro Pio XII, che coerentemente da una parte minacciava la democrazia spagnola invitando i cattolici a resistere contro quella che definiva tirannide, dall'altra rafforzava e avallava i regimi di Hitler e Mussolini firmando un concordato prima con l'Italia e poi con la Germania nazista. Ovviamente quindi in seguito, quando nel 1933 ebbe la meglio il fronte reazionario, la Chiesa Cattolica appoggiò questo fronte e quando poi nel 1936 vinse le elezioni il fronte popolare e poi si arrivò alla sollevazione militare di Franco che da tempo era stata preparata dalle gerarchie cattoliche, dai proprietari terrieri. E anche con l'aiuto di Hitler e Mussolini, appunto, la posizione della Chiesa fu ancora più chiara. Si impegnò nell'esortazione ai cattolici a schierarsi con i franchisti. E oltre a questo, le gerarchie vaticane, dirette da Pacelli, organizzarono una mobilitazione dell'episcopato italiano e dell'episcopato spagnolo. Il Papa Pio XI, Papa Ratti, impartì una benedizione speciale ai franchisti che definì difensori e restauratori dei diritti e dell'onore di Dio e della religione. Sempre in quell'anno il vescovo di Salamanca definì lo scontro una crociata e assunse proprio i toni della crusada contro gli infedeli. Nel frattempo il primato di Spagna dichiarò la causa di Franco è la causa di Dio. Nel 1937 l'Episcopato di Spagna, in accordo con Pacelli, inviò ai vescovi di tutto il mondo una lettera in cui spiegava che la Chiesa si era schierata col Movimento Nacional perché stava dalla parte di chi si pone a difesa dell'ordine, della pace sociale, della civilizzazione tradizionale e della patria e non da ultimo in difesa della religione. Una volta eletto Papa, Pacelli, praticamente eletto Papa in concomitanza con la definitiva vittoria di Franco, ringraziò immediatamente il golpista per quella che definì la vittoria cattolica della Spagna. E durante l'insediamento di Franco a Madrid, dai microfoni di Radio Vaticana, Papa Pio XII salutò solennemente la Spagna, nazione eletta da Dio come principale strumento di evangelizzazione del Nuovo Mondo e come baluardo inespugnabile della fede cattolica. Ovviamente tutto ciò non avvenne gratuitamente, tutto questo sostegno dato dalla Chiesa Cattolica al regime franchista. Franco ripristinò tutti i privilegi ecclesiastici, restituì alla Chiesa i beni espropriati, legalizzò la Compagnia di Gesù che era stata abolita, abolì il divorzio che era stato istituito dalla Repubblica, ripristinò la legge che puniva la bestemmia, ripristinò la legge che sanciva l'obbligo all'istruzione religiosa, inondò la Chiesa di sussidi. Poi, per tutta la dittatura che per 40 anni ha oppresso la Spagna, la Chiesa Cattolica fu sempre non solo di sostegno al regime e sostenuta dal regime, ma fu parte integrante di questo. Le chiese sotto regime franchista in Spagna erano sempre piene, anche perché disertare la funzione religiosa significava perdere il lavoro o finire in galera come sovversivo. La cultura spagnola sotto la dittatura, con l'avallo della Chiesa, si configurò ossessionata dal sesso, caratterizzata dall'integralismo religioso, basata su un forte machismo elevata all'altare dell'identità nazionale. Per fare un esempio, nella repressione dell'omosessualità, regime e Chiesa collaborarono attivamente. Il clero, per esempio, segnalava alle autorità di polizia chi confessava desideri non conformi. Lo Stato, da parte sua, arrivò a condannare il comportamento omosessuale attraverso la legge sulla pericolosità e riabilitazione dello Stato sociale. Questo solo per fare un esempio di come l'alleanza tra Chiesa Cattolica e destre non sia un'alleanza strumentale. E probabilmente in questa chiave va letto l'attacco a Zapatero che, a detta della Chiesa Cattolica, distrugge la civiltà, cioè distrugge questo mondo che invece era stato costruito negli anni, così sapientemente negli anni 30. E quindi è una canzone a tema, una canzone repubblicana, appunto, che viene proprio da quel periodo. Sì. Ai Carmela, oh, il passaggio dell'Ebro. Solo il nostro desiderio riesce a farla finita con tutti i fascismi, ai Carmela. Passiamo all'attualità, quindi. Quando si pensa alla Spagna si tende a dimenticare che è una nazione uscita relativamente da poco da una dittatura comunque lunghissima e devastante. Alcuni paesi innescano riflessioni e elaborano la loro personale dittatura, diciamo così, in maniera più veloce, come ha fatto l'Argentina, a confronto per esempio di un paese vicino, il Cile, che dopo più o meno lo stesso periodo ancora non riesce a, non più o meno lo stesso, dopo molti meno anni, però non è minimamente riuscito a elaborare. Certamente la Spagna ha reagito subito dopo la dittatura è uscita in strada, la cultura ha divampato, basta fare l'esempio della Movida. Ma la Spagna è comunque una nazione cattolica, macista, relativamente provinciale, seppur la popolazione è concentrata in grandi città. È rimasta comunque molto ancorata alla Chiesa, molta gente in Spagna va a messa, anche adesso. Il sesso in Spagna viene vissuto come vergogna, lo sviluppo civile, specialmente fino al governo Azar, era piuttosto bloccato, almeno quanto da noi adesso. In più, la carica del portato culturale della dittatura è una memoria solo parzialmente rielaborata. In questo contesto si colloca Zapatero, una nazione in cui si introducono le leggi di Zapatero, ma anche il personaggio pubblico di lui, con tutti i limiti e tutte le critiche che si possono fare. Bene o male ha approvato le leggi sui matrimoni gay, che possono non rappresentare un reale paletto al patriarcato dal nostro punto di vista, ma comunque sono state approvate. Leggi sulla violenza contro le donne, cita continuamente Maria Zambiano, e dal punto di vista quindi della gerarchia ecclesiastica queste azioni stanno certamente andando a ledere le fondamenta e la struttura del loro potere patriarcale. Ma di cosa parla, Elena, questa legge sulla memoria storica che stanno per approvare? Ma questa legge sulla memoria storica, su cui in Spagna c'è un ampio dibattito, come sempre si apre un dibattito quando si cerca un modo per definire qual è quella memoria collettiva che uno Stato vuol passare alle generazioni successive, di fatto è una legge che, con diversi anni di ritardo, con una proposta di legge con diversi anni di ritardo, condanna il franchismo, che vuole ridare dignità alle vittime del franchismo attraverso, per esempio, la dichiarazione di nullità dei processi franchisti e attraverso l'esumazione dei cadaveri dalle fosse comuni, dove molti che hanno combattuto sui nostri Monti Spagna, come dice la celebre canzone, sono finiti senza nemmeno essere stati segnati all'anagrafe, proprio come se espulsi in qualche modo anche simbolicamente dalla nazione. Oltre a questo, questa legge sulla memoria storica impone agli organismi dello Stato di eliminare i simboli e i monumenti del franchismo, raccomanda di eliminare questi simboli anche alle amministrazioni locali e alla Chiesa. Infatti, in Spagna, tuttora sulle pareti di molti luoghi di culto cattolici campeggiano targhe in memoria dei caduti per Dio e per la Spagna, in onore di Franco, definito supremo difensore della civiltà cristiana. Questo, più o meno in sintesi, è la legge sulla memoria storica che è già in discussione e che probabilmente verrà votata entro la fine di questa settimana, quindi esattamente in contemporanea con la beatificazione dei 498 franchisti, che avverrà a partire da sabato qui a Roma in San Pietro. E visto che Papa Ratzinger si affaccerà a salutare la folla durante queste beatificazioni, abbiamo pensato che si poteva mettere una canzone di Bennato che parla esattamente di questo, cioè Affacciati, affacciati. Sì, Bennato di molti anni fa. Bene, ma quali sono stati i risultati sulla Spagna di questa legge? Che cosa è successo dopo l'annuncio? Beh, innanzitutto è successo che la CEE, la Conferenza Episcopale Spagnola, ha messo in pista questa beatificazione di cui ha dato notizia nella passata primavera. E questo ha innescato una serie di conflitti che ci possono magari ricordare la discussione sui Pax in Italia che c'è stata in Italia l'inverno scorso, o magari semplicemente ci possono ricordare la quantità allucinante di comunicati stampa che ha mandato il Vaticano oggi, insomma. Dunque, innanzitutto all'annuncio della beatificazione dei 498 franchisti, la stampa di sinistra del paese hanno iniziato immediatamente a parlare del revisionismo storico e la relazione fra esisteva fra le beatificazioni e la legge stessa della memoria storica, mentre la stampa di destra seguito i dittamen della gerarchia ecclesiastica. La Spagna immediatamente è stata dichiarata dai vescovi nazione dei martiri, ne parliamo dopo di questo concetto, nazione dei martiri per eccellenza, e mentre a Valencia il vescovo ha deciso di costruire un macro santuario per i martiri del 36. Immediatamente si sono formati gruppi che hanno realizzato campagne per disincentivare questa idea. Il cardinale di Toledo ha lanciato un attacco proprio alla legge della memoria storica, sostenendo che fatta adesso serve soltanto a riaprire le ferite, con una polemica appunto che è durata settimane, mentre poi i vescovi hanno negato che la beatificazione serva proprio contro la legge sulla memoria storica. Dall'altra parte le chiese di base hanno reagito anch'esse a questa cosa. Un articolo per esempio di Iglesia Plural ha parlato, si intitolava Martiri o vittime manipolate. C'è stato un diffondersi di lettere di cattolici ai propri vescovi chiedendo ad essi di non andare a Roma perché la beatificazione in termini generali disonorava in qualche modo i cattolici. Gli evangelici hanno preso posizione dicendo che la Chiesa è stata sia vittima che boia nella guerra civile, mentre i cattolici di base hanno qualificato la beatificazione come discriminatoria, fino ad arrivare alla settimana scorsa in cui, nel divampare di queste polemiche, Zapatero purtroppo ha fatto vedere se stesso, rendendo un po' nota anche la sua equidistanza. Infatti ha chiesto rispetto per la legge sulla memoria nella stessa maniera in cui lui ha rispetto per la beatificazione di massa, e che è un po' insomma anche strano, Zapatero è equidistante da se stesso. Contemporaneamente la settimana scorsa il ministro degli esteri ha annunciato che parteciperà alle beatificazioni in Italia, praticamente sui media spagnoli occupa un tale spazio che sarebbe stato difficile insomma per il governo oggettivamente non esserci, e nel frattempo ha parlato più chiaro di tutti l'ambasciatore spagnolo presso il Vaticano, che appunto ha fatto riferimento ai problemi attuali del governo Zapatero dovuti alle correnti anticlericali all'interno del PSOE. Volevi dire qualcosa, Elena? No. Bene. E poi appunto è iniziato il dibattito parlamentare della legge, e proprio la settimana scorsa appunto si è scoperto che il prete che si è occupato della causa di beatificazione proprio in persona ha partecipato a una conferenza organizzata da Forza Nueva, una casa editoriale franchista, ne avevamo già accennato la settimana scorsa. Infine è uscita la notizia che Gabino Laso Zavala, uno dei beatificati, torturò un sacerdote filippino. Gabino Laso Zavala era un padre dell'ordine degli agostiniani e, come gli altri 497, fu assassinato in quell'epoca, e in particolare per mano di un repubblicano. Giustiziato, direi. Però allo stesso tempo questo prete martirizzò un suo collega. La sua vittima si chiamava Mariano da Canai, un sacerdote filippino accusato di simpatizzare con il movimento che impediva l'ingresso degli spagnoli nella colonia asiatica. Proprio da Canai raccontò il suo martirio nei suoi scritti, prendo soltanto una frase: quando sono caduto mi hanno sbattuto la testa contro uno spigolo ferendomi, in un'altra occasione rotolavo fino al padre Gavino, che stava tranquillamente contemplando la scena, e lui mi ha dato una grande pedata sulla testa che mi ha lasciato completamente privo di sensi. La Chiesa non si è pronunciata, la notizia è di Glocalia.com. Invece vediamo Come sintetizza il dibattito in Spagna e quello che sta succedendo un sito spagnolo, Espacio Laico, che è appunto un sito di informazione laica, dove è apparso un articolo di a firma di Maria Zauchiglio, che si intitola La conferenza episcopale contrattacca con questa iniziativa la legge della memoria storica. Cercherò di ripercorrere appunto questo articolo. La Chiesa beatificherà quest'ottobre a Roma 498 nuovi martiri della guerra civile, giusto nel momento in cui si discute al Congresso la legge sulla memoria storica, che propone la restituzione di dignità alle vittime del franchismo e della guerra civile. Il numero di beatificati in questa occasione equivale praticamente al numero di tutti i martiri spagnoli che morirono nel secolo XX e che sono stati beatificati fino a oggi, cioè 479. La maggioranza di questi furono beatificati da Giovanni Paolo II. Giovanni XXIII e Paolo VI si erano rifiutati di farlo per non riaprire nuove ferite. I martiri che morirono nel perdono sono il miglior alimento per fomentare lo spirito della riconciliazione, dice la Conferenza Episcopale Spagnola. Inoltre, il segretario generale e portavoce della Conferenza Episcopale, Juan Antonio Martínez Camino, durante una conferenza stampa ha dichiarato che questa iniziativa non va contro nessuno e non ha niente a che vedere con il governo. Senza dubbio il messaggio dei vescovi spagnoli si ricollega a una pastorale del novembre del 2006 molto critica con l'esecutivo di Zapatero e che assicura che l'uso della memoria storica guidata da una mentalità selettiva apre di nuovo vecchie ferite della guerra civile e ravviva sentimenti che sembravano essere superati. Questa beatificazione è, secondo la Conferenza Episcopale, necessaria soprattutto in questo momento in cui, nel medesimo tempo, si diffonde una mentalità laicista e la riconciliazione sembra minacciata nella nostra società. La beatificazione di quasi 500 martiri, 2 vescovi, 24 sacerdoti, 462 religiosi, un diacono, un subdiacono, un seminarista e 7 laici, si celebrerà a Roma la prossima domenica in una cerimonia congiunta e di massa, contrariamente a quanto Benedetto XVI aveva espresso all'inizio del suo mandato. Il Papa infatti aveva detto che queste cerimonie si sarebbero celebrate nella diocesi dei beatificati. Questo per la Conferenza Episcopale è un'eccezione. I vescovi spagnoli evitano di parlare di martiri della guerra civile. Li chiamano, al contrario, martiri della persecuzione religiosa degli anni 30. Senza dubbio, dei 498 fedeli che saranno beatificati a Roma, solo 2 morirono nel 34, 7 nel 37 e 489 durante l'anno 1936, anno in cui cominciò la guerra civile. Martínez Camino evitò dare il nome e la condizione dei martiri e, davanti alla domanda della stampa che chiedeva se qualcuno di questi fedeli era franchista, il segretario generale e portavoce della CEE ha risposto che non si pronunciava sull'ideologia dei martiri. La Conferenza Episcopale nega che con queste 498 nuove beatificazioni si voglia riportare in vita il passato e riaprire vecchie ferite. Tutto il contrario, l'intenzione della Chiesa è promuovere lo spirito del perdono, dice Martínez Camino. I martiri sono al di sopra delle tragiche circostanze che hanno portato alla loro morte. Con la loro beatificazione si tratta innanzitutto di glorificare Dio, eccetera, eccetera. Insomma, si dà una spiegazione del tutto teologica e religiosa. Per il portavoce della Conferenza Episcopale, la memoria dei martiri non cerca di addossare colpe a nessuno, anche se chiosa ce ne sarebbero. Con la beatificazione di massa della prossima domenica, la Chiesa spagnola intende riaffermare la sua idea, che è quella della nazione martire del XX secolo, su cui forse Monica vuol dirci qualcosa di più. Sì, beh, in sintesi la nazione martire è un concetto che usa Bin Laden rispetto ai musulmani come nazione dei martiri. Nel XIX secolo gli ideologi del nazionalismo hanno enfatizzato un processo storico, oppure anche, si potrebbe dire, evoluzionistico mondiale di individualizzazione, nel quale le persone del mondo prendessero i loro caratteri distintivi, le loro missioni, i loro destini. Perlomeno le nazioni storiche hanno fatto così, e altri hanno mancato di vigore, di carattere nazionale, sono state destinate a fallire, consegnate alle retroguardie della storia. Senza sorprese, lo stesso identico ragionamento che tipicamente viene fatto dalla parte dominante o dalla maggioranza della popolazione rispetto alle minoranze o altri subordinati al proprio dominio. Questa fu una delle concettualizzazioni in effetti della primavera delle nazioni, fu il periodo in cui la Francia fece la sua mission civilisatrice, la Germania trovò il suo proprio destino, la Polonia cristallizzò la propria concezione romantica di nazioni martiri. Si parla di nazioni martiri nel caso appunto della Polonia, della Serbia di Milosevic. Lui cercava di inculcare questo concetto, io non ho notizia se ci sia riuscito, penserei di sì, l'Armenia rispetto per esempio ai turchi. Quindi diciamo che questo concetto di nazione martire potrebbe fare riferimento un po' al concetto di Cristo fra le nazioni, di redimento del mondo, e in genere stimola sentimenti di risentimento, scusate il gioco di parole. In sintesi, quello di cui stiamo parlando qui è un concetto quindi molto chiaro, uno scontro culturale in cui la Chiesa di Spagna punta a ricostruire l'identità nazionale spagnola in chiave cattolica, come se ce ne fosse tra l'altro bisogno. E mentre aspettiamo il prossimo brano musicale, vi ricordiamo ancora che venerdì prossimo alle 18, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, sarà un approfondimento su questo tema nella trasmissione Radio Euskadi. Di meglio da fare e la guerra di religione. Devo farmi le bimbe, giocare a pallone. Ho di meglio da fare e lo scontro tra civiltà. Nel nome di Dio o nel nome di Allah. E poi dopo dal niente arrivano questi e ti dicono: non possiamo lasciare gli iracheni a se stessi, non possiamo lasciare gli iracheni da soli. Hanno bisogno di noi. Come si scrive, non so neanche dov'è, ma gli iracheni han bisogno di me. Io non uccido nessuno, e se qualcuno mi uccide muoio, ecco il contributo, questo è il contributo mio. Non uccido nessuno, e se qualcuno mi uccide muoio, ecco quello che ho deciso, questo è quello che so fare io, questo è quello che so tremendo alle nostre certezze. Ma di quali certezze parlate? Io ho soltanto eresie, e le vostre certezze non sono mai state le mie. Non mettetemi nel mucchio, non contate su di me. Io non uccido su mandato del presidente. Né per conto del re. Io non uccido nessuno, e se qualcuno mi uccide muoio, ecco il contributo, questo è il contributo mio. Che non uccido nessuno, e se qualcuno mi uccide muoio, ecco quello che ho deciso. Questo era il contributo di Mauro Mercatanti, un contributo sicuramente maschile sia per le pippe che per la prosopopea, ma comunque interessante. E adesso leggiamo, diciamo, citiamo quello che sta per succedere domenica prossima. Invece, dal punto di vista dell'Italia, forse siamo un po' vanitosi, ma riteniamo che basti leggere il documento prodotto a Facciamo Breccia. Domenica 28 ottobre 2007, anniversario della marcia su Roma, saranno beatificati in San Pietro 498 franchisti, tra appartenenti al clero e laici. Saranno beatificati perché, secondo i prelati, sono martiri della Repubblica. Sarà la più numerosa delle beatificazioni mai realizzate. È prevista una folla di fedeli, figli franchisti, dalla Spagna, e il battage pubblicitario delle grandi occasioni sui media italiani. La gerarchia vaticana con questa azione di massa entra violentemente nel dibattito pubblico spagnolo, politico spagnolo. Il governo Zapatero sta per varare una legge sulla memoria. E la Chiesa prende posizione in questo modo. D'altro canto, attraverso questa iniziativa le gerarchie vaticane continuano a fare politica in supporto al fronte clerico fascista. La scelta della data della marcia su Roma allarga il significato dell'operazione e la colloca nel tentativo sempre più visibile di sdoganamento e legittimazione del fascismo, tentativo operato dall'integralista Ratzinger per affermare un modello di società chiuso e reazionario, patriarcale, omofobico e razzista. La beatificazione di 498 franchisti presentati come martiri è un esempio vergognoso di revisionismo storico. La strategia vaticana è ancora il vittimismo. Si costruisce un'iniziativa per mostrare il clero come vittima di sanguinari comunisti, quando la realtà storica racconta che la Chiesa fu parte di una reazione fascista che portò in Spagna alla guerra civile e all'instaurazione della dittatura. D'altra parte, in Italia conosciamo bene questa tattica vaticana. Negli ultimi mesi si cerca di far passare la Chiesa cattolica, gli esponenti del clero e persino i politici che direttamente ne sopportano le istanze, come vittime di una campagna anticlericale, quando al contrario la Chiesa cattolica condiziona in modo sempre più palese la vita culturale, politica e sociale del nostro paese e conduce una campagna di istigazione all'odio e alla violenza contro donne, lesbiche, gay, trans, che produce a sua volta aggressioni, stupri, omicidi e diffusa intolleranza. Dall'operazione revisionista che verrà celebrata domenica 28 è essere rafforzata la marcia del dissolvimento della laicità e la fascistizzazione della società basata sulla creazione della paura e sulla caccia alle streghe dello scontro di civiltà. Ne fanno le spese ancora una volta tutte le soggettività non conformi al modello unico dominante, la verità storica, l'antifascismo, fondamento del nostro vivere. A questo proposito vogliamo anche ricordare che proprio sabato e domenica si terrà la due giorni della RAM, e quindi abbiamo chiamato al telefono Graziella Bertozzo, che ci dovrebbe essere. Graziella, ci sei? Pronto, Graziella, ci senti? Stiamo parlando. Oh. Pronto, ci sei? Sì, io ci sono. Perfetto, sento ora si sente. Ora. Graziella è stata una delle partecipanti al scorso tavolo della RAM, che si tende presso la SNIA, invece il prossimo si terrà presso il Forte Prenestino qui a Roma, e abbiamo voluto chiamarla diciamo facendo un collegamento fra quelli che sono i contenuti di questo 28 e quello che furono le riflessioni rispetto all'alleanza credico-fascista che venne vennero fatte in quella sede anche da lei. E, Graziella, quindi proprio diciamo Papa Wojtyla ha fatto lo stesso numero di beati di tutti quelli che c'erano prima, e ora Ratzinger dopo così poco tempo lo sta già superando. Un po' una perdita di vergogna, no? Cioè, nel senso, un po' come il nostro governo si dice di sinistra, perde la vergogna rispetto a tante leggi che non fa, e il Papa sembra fare una cosa simile. Cosa ne pensi? Ma intanto penso quello che ha detto qualcuno, forse bisognerà allargare il paradiso. Dopodiché penso che noi in qualche modo fummo facili profeti. Noi già da almeno una decina d'anni, se non di più, stiamo denunciando un'alleanza che inizialmente potevamo identificare come un'alleanza tra l'estrema destra e l'integralismo cattolico. Ora è un'alleanza tra il Vaticano e la politica generale in Italia, parlando della politica italiana. Il titolo del documento, facciamo breccia, è "Il Vaticano marcia su Roma". Il problema è che per il Vaticano Roma è caput mundi, quindi il Vaticano marcia sul mondo, e questo è un progetto di egemonia mondiale da parte del Vaticano che utilizza l'Italia come laboratorio sostanzialmente, e non è un laboratorio che nasce ora, è un laboratorio, un'alleanza che voi benissimo avete illustrato da un punto di vista storico, ma che ha ritrovato virulenza nel momento in cui l'estrema destra in Europa ha trovato virulenza. Non a caso io avevo fatto un bel prospettino che cerco di illustrarvi non visivamente ma a parole. E anche in fretta, scusaci perché siamo parecchio in ritardo, scusa. Allora, velocissimamente, Forza Nuova ha un programma che considera la famiglia il caposaldo della società, soggetto primario sociale. Questo programma, Forza Nuova, l'ha steso, l'ha presentato all'inizio della sua esistenza, è nato proprio su questo. L'incremento demografico è uno degli altri temi fondamentali, perché Forza Nuova teme che il popolo italiano stia progressivamente sparendo. Questo era il programma di Forza Nuova quando nacque nel 98. 10 anni dopo, il programma del governo Prodi dice chiaramente che una politica per la famiglia è il punto centrale delle proprie leggi, della propria organizzazione. Addirittura quando si parla di welfare, si parla di welfare a misura della famiglia. E contemporaneamente sembra che una delle massime preoccupazioni del governo Prodi sia collegata ai bassi indici di natalità. Io sostengo di natalità ariana, perché non è che in Italia la natalità sia in diminuzione, anzi è in aumento, soltanto che forse non è abbastanza ariana. Questo per quanto riguarda la politica. Questa politica però, guarda caso, si fa a inserire in un'alleanza che per Forza Nuova era quella con gli integralisti cattolici, e delle cose analoghe, tipo proclamare l'esistenza di un ordine naturale cristiano oggettivo immutabile come unico e necessario fondamento di ogni società ben ordinata, è una degli slogan preferiti da Roberto De Mattei. Roberto De Mattei, che è il coordinatore del centro Lepanto, che è uno dei centri più forti dell'integralismo cattolico. Tutte le posizioni che alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, erano espresse dall'integralismo cattolico, tipo la contestazione dei Pride, gli attacchi, pestaggi indotti all'estrema destra verso gay, lesbiche, transessuali, donne e così via, ora sono assunti direttamente dal Vaticano. Cioè, quello che sta dicendo Bagnasco nel 2007 era quello che nel 1998 dicevano gli integralisti cattolici. Mi pare chiarissimo. Verrai alla RAM sabato? Verrò alla RAM, forse sì, mi piacerebbe venire alla RAM, peccato che abito un po' lontano, ma credo che una cosa nazionale. Sì, no, credo che probabilmente verrò, e verranno anche delle altre compagne, proprio perché credo che la presenza femminile sia importante in questo caso. Sì, penso anch'io. Non far come loro. Questa era Graziella di Facciamo Breccia, e questi microfoni erano i microfoni di Sulla Breccia dell'Onda, la trasmissione settimanale di Facciamo Breccia, che vi aspetterà ancora sulle frequenze di Radio Onda Rossa mercoledì prossimo alle 20:15. Vi ricordo ancora www.facciamobreccia.org. La cumbia dei monaci.